questo lunedì 12 novembre. Intanto uno sguardo ai titoli. Il Sole 24 Ore apre sul pubblico impiego. Il titolo di apertura: per gli statali, tagli a tutto campo da gennaio, riduzione dei posti obbligatori anche per comuni e partecipate. Il Corriere della Sera invece sulla scuola, sull'orario vincono i docenti. Repubblica, esodati, altra beffa, mancano i soldi. L'Unità, salvi i professori, non gli esodati, mette insieme le due cose. Per la Stampa invece Monti all'Unione Europea, inaccettabile lo stop ai fondi per l'Emilia. Il Secolo XIX, l'Italia flagellata, chiede aiuto all'Unione Europea. Il Messaggero, scuola salva, tagli alla ricerca, mentre Il Giornale in politica mette la prima pagina: Alfano, no a Fini e Monti. A proposito di politica, mi sa che galeotta fu l'intervista che Raffaella Pirini del Movimento 5 Stelle ha fatto a questi microfoni qualche giorno fa per commentare, l'avevamo chiamata per commentare il cosiddetto punto G che Beppe Grillo ha detto viene stimolato da persone che vanno in TV, i talk show. Eccola qui Raffaella Pirini, leggo dall'Unità, pagina 8: Grillo Epurator caccia la veterinaria ribelle. Mi sa che domani, se vorrà, la reinviteremo a questo punto. Raffaella Pirini, consigliera di Forlì, che aveva solidarizzato con Federica Salsie, che era stata ospite in TV di Ballarò, potrebbe essere cacciata. Pagina 8, Claudio Visani racconta: Beppe Grillo non accenna a cambiare registro, men che meno tende la mano ai dissidenti. Dopo le scomuniche a Tavolazzi, Favia e a Federica Salsi, si appresta a mandare un altro post scriptum, che nel linguaggio del Movimento 5 Stelle vuol dire PS, puoi sparire. E questo aggiungo io, Un post-scriptum di espulsione a Raffaella Pirini, medico veterinario, consigliere comunale a Forlì, eletta con una lista certificata Movimento 5 Stelle, che a Radio 24 aveva definito veramente di cattivo gusto le parole dell'ex comico genovese contro la collega Salsi, aggiungendo poi: del resto lui ascolta solo Casaleggio. Forse ve la ricordate l'intervista una decina di giorni fa. E racconta l'Unità, alla Pirini, al suo gruppo sarebbe arrivata una lettera dallo staff, ma finché non c'è il PS non è ufficiale. Post scriptum, puoi sparire. Kim Jong-il e la democrazia, io lo chiamo così, Kim Jong-il, ma così è una burla. Non vorrei anch'io essere mandato in un campo di rieducazione. Anche sul Quotidiano Nazionale, a pagina 9, raduno dei ribelli, Grillo nel mirino, la Salsi in TV, non c'è democrazia, e Pirini, consigliera di Forlì, avrebbe ricevuto una lettera dal guru. Il guru, non so chi sia il guru, rischia l'epurazione, se il guru sia lo stesso Beppe Grillo o se sia Casaleggio. Comunque stiamo a vedere se arriva il PS, il puoi sparire, da Kim Jong-il a Raffaella Pirini. Vi ha appassionato la vicenda che ha visto cadere il capo della CIA, l'uomo, uno degli uomini più potenti al mondo, l'alpino subito sorride, dice sì mi ha appassionato, ma perché c'è tutto? E è venuto fuori, adesso pare che siamo al numero 2, siore diamanti di David Petraeus, cioè non una, ma almeno due, e pare che sia proprio un litigio tra le due amanti, un litigio bello e buono tra due donne che si contendevano. David Petraeus, uomo potentissimo della CIA, ad avere poi causato tutto questo. La moglie, l'amante e Jill, la terza donna. Ecco, è spuntata. Guido Limpio, a pagina 14, il Corriere della Sera, dice: chiusi delle rispettive case, David Petraeus e Paula Broadwell hanno affidato la loro reazione agli amici. David prova rimorso per quel che ha provocato, fanno sapere gli amici, ha ammesso di aver rovinato tutto, mentre l'amante risponde: la famiglia è unita, supereremo questo momento. Ovviamente è assediata, adesso si contenderanno tra un po' di tempo, credo, a suon di bigliettoni di dollari, le prime confessioni, i libri, le interviste, eccetera. Ma è spuntata anche una terza donna, Jill Kelly, 37 anni, ha denunciato lei, Paula, vale a dire l'amante di David Petraeus, dando via all'indagine. E ora tutti si chiedono come mai l'ha denunciata? Il sospetto è che anche lei avesse conquistato i favori amorosi e l'amicizia con il capo della CIA, che quindi ora sarebbe a numero due amanti. Come scrive Vittorio Zucconi a pagina 14 di Repubblica, sotto il titolo «Sesso e spie, la guerra delle donne dietro l'addio del generale innamorato», scrive Zucconi: «Volano stellette, lenzuola, lettere anonime, sogni erotici, spie, donne infuriate, intrighi politici nel remake sordido e delizioso del celebre film Monica e Bill sullo sfondo del sangue sparso in due guerre insensate». È l'ora del vecchio generale rimbambito dal sesso e della donna che lo sedusse e lo usò per farsi un nome sul teatro sempre aperto degli scandali nella capitale dell'ultimo impero. Ora irrompono sul palcoscenico anche la terza donna rivale, la furia dell'amante abbandonata, il radiologo cornuto, le fantasie sporcaccione del surdato innamorato e addirittura il sesso sotto la scrivania, l'indimenticabile lascito di Bill e Monica alla storia americana. Sesso, menzogne, posta elettronica si avvinghiano nell'ultimo grande affair politico militar porno spionistico americano sullo sfondo di migliaia e migliaia di morti e di miliardi di dollari bruciati. E così inizia l'articolo. Il secolo XIX fa sapere che la casa di Paula Broadwell ormai è assediata, vive a Charlotte, nella Carolina del Nord. E vi segnalo anche il commento molto spassoso di Lia Celi oggi in prima pagina di Pubblico: Petraeus e il generale Ego. Scrive Lia Celi: archiviamo starlette, danzatrici di burlesca, api regine. Il caso Petraeus, il generalissimo che lo fa benissimo, anticipa il nuovo sogno erotico del potente anni 10, la biografa, una donna che oltre a stendersi con lui sotto la scrivania sappia stendere la sua vita in 300 pagine di bella scrittura, proprio come Paula Broadwell, sexy ricercatrice che dopo aver raccontato le gesta dell'ex capo della CIA in un libro da un titolo che a posteriori suona un tantino equivoco, All In, tutto dentro, ha scritto la parola fine alla sua carriera. E chi ha visto le foto della signora Petraeus, donna eccellente, il cui unico difetto è un'impressionante somiglianza con Michael Moore, può sospettare che la Broadwell non sia stata la prima scappatella del marito. E infatti, ora spunta la terza donna. Vabbè, se siete appassionati in questa trama spionistico erotica che ha terremotato in realtà uno dei vertici più importanti dell'amministrazione pubblica americana, vale a dire la CIA, sui giornali leggete tutto. Se siete appassionati sui giornali americani leggerete anche di più, e come si dice appunto in America, stay tuned, perché le puntate non sono finite. Noi ci sentiamo tra poco. 24 mattino. Allora, le 7:36 minuti, la politica, iniziamo da qui. Oggi, come la girate o la rigirate, se prendete in mano un giornale, non potete scampare, per quel che mi riguarda, visto che la mia passione nell'argomento è meno di zero, sul tema della riforma elettorale. Perché sono giorni convulsi di dibattiti in cui, come sapete, per esempio il Corriere della Sera ci dedica le prime 5 pagine. E che cosa è successo? È successo che grazie a un voto di PDL, Lega, UDC in Commissione Affari Costituzionali è stata posta una soglia al 42,5% per far scattare il premio di maggioranza. Chi non raggiunge questa soglia non ha il premio di maggioranza. Ovviamente, viste le proiezioni attuali, nessuno raggiunge questa soglia, a meno di ammucchiatone un po' improbabili. E quindi l'accusa soprattutto del Partito Democratico, ma anche del Movimento 5 Stelle, è avete fatto questo per rendere il tutto ingovernabile e quindi aprire la possibilità poi a che cosa? A un Monti bis, Eterna Monti, come io l'ho definito su Twitter. Sta di fatto che ora il dibattito è che si cerca, dopo questo primo punto fermo, di trovare un accordo, una quadra tra i partiti. Casini, questa è la novità politica del giorno, apre sul premietto. Che cos'è il premietto? È la proposta del politologo Dalimonte di dare un 10% comunque di premietto, per l'appunto, a chi prende più voti. Anche se non raggiunge la soglia del 42,5%, in modo da garantire almeno un piccolo premio, appunto, un piccolo numero di parlamentari. Se vi è già venuto il mal di testa a questo punto, dopo 2 minuti di spiegazione, è tutto normale, non vi preoccupate. In ogni caso, Casini apre sul premio stop del PDL, così titola pagina 2 il Corriere della Sera. Tra l'altro, io sempre ironizzando dico, siamo alla 90esima ormai settimana decisiva per la riforma elettorale, ogni volta che passa una settimana aggiorno aggiungendone di una, ma oggi sul Corriere della Sera l'ho letta così e all'inizio sorridevo un po', è la settimana decisiva, cioè questa è la settimana decisiva, almeno secondo Monica Guerzoni sul Corriere della Sera, per trovare un accordo su questo. Tra l'altro c'è anche un intervento di Marzio Breda, che è il quirinalista del Corriere della Sera, a pagina 3, qual è la posizione di Napolitano? Beh, un Napolitano che preme sui partiti, perché dice sul lodo l'intesa è possibile, l'interesse manifestato dal Quirinale ai leader di partiti per il premietto proposto da Roberto Dalimonte. Ecco, quando sentirete parlare di premietto pensate a quel 10% che dovrebbe essere dato al partito che prende più voti di tutti. Anche per Repubblica, legge voto, Casini apre al bonus del 10%, questo a pagina 4, così il Secolo XIX, Casini, mano tesa a Bersani, va bene il premio del 10%, cioè quel premietto che ha proposto Roberto Dalimonte. L'Osservatorio dell'Unità, pagina 6, fa una ipotesi di voto anche con il PD oltre il 30%, Grillo batte il PDL ed è secondo con il 15%. Sono tutte proiezioni, ovviamente adesso inizieranno anche a intensificarsi queste proiezioni in vista del voto. Sempre dal punto di vista della politica, ieri si è registrato Alfano, che è stato intervistato da Lucia Annunziata in mezz'ora su Rai 3, e ha chiuso a Monti bis e a Fini e invece ha detto potremmo cambiare nome e simbolo del Popolo della Libertà. Tra l'altro ha detto Berlusconi potrebbe avere un ruolo un po' come a Repubblica ce l'ha Eugenio Scalfari, no? Se prendete la prima pagina di Repubblica, il direttore Ezio Mauro, ma c'è scritto sotto la testata fondatore Eugenio Scalfari. Ecco, questo paragone non credo farà molto piacere a Berlusconi, essere paragonato a Eugenio Scalfari. A proposito di Berlusconi, è tornato dal Kenya e in un retroscena di Repubblica, pagina 7, a firma Francesco Bei, l'ultima tentazione del Cavaliere, un vertice per riprendere lo scettro. Tutti sono pronti a cercare di capire, anche all'interno del Popolo della Libertà, che cosa farà Silvio Berlusconi, quali sono le mosse, estrarrà o no questo dinosauro dal cilindro e chi sarà, cosa sarà questo dinosauro dal cilindro, oppure tutto schermaglie politiche, tutto un bluff. Beh, Francesco Bei su Repubblica racconta appunto: Berlusconi è tornato da Malindi, il Cavaliere è pronto a dare battaglia, non si rassegna. Viene attribuita a lui la seguente frase: le primarie sono un errore, rischiano di distruggere tutto. Questo ha ripetuto dal Kenya prima di anticipare il rientro previsto per martedì. Cosa intenda fare resta un mistero per gli stessi fedelissimi. Ma il tantam è che sia tentato da un gesto clamoroso, ribaltare la decisione dell'ultimo ufficio di presidenza, chiedere una nuova deliberazione per cancellare le primarie e piazzare la sua candidatura. Una bomba atomica che di fatto delegittimerebbe Alfano e con lui l'intero gruppo dirigente. Un azzeramento totale, preludio di una campagna elettorale combattuta col simbolo di Forza Italia. E questo nella mente di Silvio Berlusconi? Vai a saperlo. Certo, a lui viene anche attribuita questa frase: Berlusconi avrebbe detto un uomo vicino ad Alfano a Repubblica. Berlusconi vuole una sfilza di candidature folcloristiche per sputtanare le primarie e ridimensionare il successo del segretario Alfano. Ripeto, non resta che attendere le prossime mosse. La Lega invece, la Lega ieri ha tuonato Roberto Maroni con quella che per la verità era una minaccia che più volte è stata adombrata, ora pare un po' più concretizzarsi. Lasceremo il Parlamento. Maroni chiama i sindaci alla rivolta. Marco Cremonesi a pagina 9 del Corriere della Sera. Il soldato Maroni suona la carica via da Roma. Ieri a Bologna in un comizio ha parlato: dopo l'approvazione della legge di stabilità e della legge elettorale proporrò al Consiglio federale che la Lega ritiri le proprie delegazioni da Camera e Senato. Certo, c'è ancora da approvare la legge elettorale, ma quella si deve fare prima di Natale, dopodiché la vicenda del governo Monti è chiusa. Questa è la posizione di Maroni. Lasceremo il Parlamento, una Lega che torna d'assalto. Tra l'altro sia il Corriere della Sera sia Repubblica fanno notare che a queste manifestazioni ci sono stati dei cori incresciosi nei confronti di Monti e Fornero, tutti al cimitero. Questi sono gli slogan che si sono sentiti. Questo fa notare sia Corriere della Sera sia Repubblica, che fa proprio il titolo su questo: Lega in corteo, offese a Monti e Fornero, il loro posto è il cimitero. Così racconta Silvia Bignami su Repubblica a pagina 6. Questo per quel che riguarda la politica. L'economia, il tema che torna in prima pagina è quello degli esodati. Allora, per gli esodati davvero non c'è tregua, sembra che si trovino gli accordi e poi il giorno dopo tutto salta. L'ultima è questa. Da Repubblica, pagina 2, esodati, stop al salvataggio, interviene la ragioneria, troppi. Non ci sono fondi, cioè troppi sono gli esodati. Stallo, racconta Lucio Cillis. Stallo in commissione bilancio alla Camera sulla questione esodati. Mentre si trova sulla scuola, gli insegnanti, una soluzione per bloccare l'aumento delle ore di lavoro, tra poco lo vedremo. I conti sugli esodati, però, secondo la ragioneria dello Stato, non tornano e la palla torna a rimbalzare nel campo dei parlamentari che non accettano il nuovo stop. Per superare l'impasse, i vertici del Ministero del Lavoro e dell'Economia si incontreranno oggi alle 8:30 del mattino, quindi tra poco si cerca una soluzione condivisa per approvare nelle prossime ore gli emendamenti pro esodati al disegno di legge stabilità. La partita si gioca sul filo dei numeri, di quanto è realmente ampia la platea dei lavoratori sospesi prima della pensione, di quante risorse occorrano per salvarli senza mandare in tilt i conti. Fino a oggi, per poco meno di 130.000 persone, si pensava a una somma paracadute di circa 9,1 miliardi di euro. Ma in realtà, come scrive anche il Corriere, la ragioneria gela PD e PDL, non ci sono i fondi, e così anche l'Unità mette a pagina 2 e 3 il tema degli esodati, la ragioneria frena, esodati ancora in bilico. Mentre invece, oltre agli esodati, tremano gli statali, perché anche oggi il Sole 24 Ore dice attenzione, perché ci sono il piano esuberi, per carità senza allarmare nessuno, in maniera dettagliata spiega cosa sta per succedere, con la possibilità anche di estendere agli enti locali il meccanismo che scatta sugli esuberi nella pubblica amministrazione. Da qui riprendiamo tra poco. Eccoci qua allora, il dossier esuberi si estende agli enti locali, così trovate a pagina 3 del Sole 24 Ore, Gianni Trovati, qualche sacrificio sullo stipendio in cambio del fatto che il posto è sicuro, non è soggetto alle incognite che la crisi moltiplica nel mondo privato. Questo era il presupposto della cura Brunetta sul pubblico impiego, che dal 2010 si è visto congelare rinnovi contrattuali, trattamenti economici individuali. Ma ora, sulla sicurezza assoluta del posto pubblico non è più il caso di scommettere, soprattutto dopo che la parola esuberi ha fatto il suo ingresso ufficiale anche in questo campo con il decreto di luglio sulla revisione di spesa. E dunque, scrive Gianni Trovati, a dominare il dibattito sono stati finora i 6.000 dipendenti di troppo trovati e individuati nella pubblica amministrazione centrale. Ma attenzione, non è il caso di parlare di licenziamenti, perché lo scivolo della mobilità biennale in stile greco all'80% dello stipendio tabellare scatterà come estrema razio. Prima di tutto, ogni amministrazione individuerà chi raggiunge i requisiti previdenziali pre-Fornero entro il 2014 e dunque potrà andare in pensione con le vecchie regole. Per tutti gli altri si apre una prospettiva più complicata, che può passare per lo spostamento in un altro ufficio, la collocazione in part-time, lo scivolo biennale. Insomma, però si parla di esuberi, si comincia a parlare di esuberi. E dopo le 6.000 eccedenze nella pubblica amministrazione centrale, da gennaio tocca anche a comuni e società partecipate. Dunque, dipendenti pubblici, attenzione. Anche perché, legato a questo tema, ci sono due articoli che prendono spunto entrambi da una ricerca dell'ARAN, e li trovate sulla Stampa e sul Giornale. E mobilità. Quando si dice, c'è la mobilità nell'impiego pubblico. Ma quale mobilità? impiegati pubblici sempre immobili, solo uno su 100 cambia ufficio, così a pagina 3 della Stampa. E il giornale Ora Ufficiale, statali pigri e inamovibili, solo lo 0,1% cambia ufficio, lo certifica l'ARAN, cioè l'Agenzia per la Contrattazione della Pubblica Amministrazione, scrive Francesco Grignetti sulla Stampa, pagina 3. Per chi governa è da sempre la sfida più difficile far cambiare scrivania a un dipendente pubblico. Secondo l'ARAN, nel 2010 la mobilità tra settori del pubblico impiego ha coinvolto appena lo 0,1% del personale. Quella intracomparto, cioè tra uffici dello stesso settore, l'1%. Per farla breve, nel 2010 solo in un caso su 1000 c'è stato lo spostamento di un dipendente da un ente all'altro e solo in un caso su 100 l'amministrazione ha ordinato il cambio d'ufficio. L'immobilità pubblica, bisognerebbe dire, non la mobilità pubblica, l'immobilità. Vi segnalo invece questa da Repubblica, per chi segue con passione il tema IMU e Chiesa. Perché Repubblica denuncia questo. Attenzione, c'è un blitz del governo alla Camera per garantire un'imposta più leggera per la Chiesa. Dobbiamo adeguarci, gli immobili a scopo anche parzialmente commerciale devono pagare l'IMU. Ce lo chiede l'Europa, non è che ce lo chiede un capriccio, altrimenti subiamo delle infrazioni costosissime. E Valentina Conte su Repubblica spiega che il governo, costretto a accelerare il varo del regolamento che imponga anche alla Chiesa e agli enti no profit, laddove producono utili, di pagare nel 2013 l'IMU, tenta un colpo di mano. E che cosa sarebbe per Repubblica? Sarebbe quello di far passare una definizione ad hoc di ciò che non è attività commerciale, che vale per questi enti ma non per il resto degli italiani, e che solleverebbe questi enti dal versamento dell'imposta sulle porzioni di immobile ad uso misto da cui traggono profitti, come alberghi, ostelli, mense, cliniche, con una semplice modifica del loro statuto da portare in corsa entro dicembre. Tutti i dettagli li trovate su Repubblica. Beh, è una denuncia che, se vera, nei termini è una denuncia di un qualcosa di sbagliato. C'è una definizione diversa per gli enti no profit e qui anche per la Chiesa di che cosa sia un uso parzialmente commerciale, in modo da far mantenere l'esenzione dall'IMU. C'è molto di cronaca, e seguite anche Radio 24, sulla situazione sfollati, perché piove in Italia, magari anche tanto, e visto che abbiamo una cura del territorio sotto zero, subito ci sono gli sfollati. Chiudo velocemente dicendo che se avete 49 milioni di euro da parte, magari in tasca, Alpino prova a controllarti le tasche, l'onorevole Santo Versace vende la sua villa nel centro di Milano. Versace vende la Reggia di Milano, la crisi mette in fuga i pretendenti. Scrive il Giorno che anche Versace non trova soldi, cioè non trova acquirenti. 49 milioni di euro è un po' troppo, e quindi l'asta di, o meglio, l'annuncio fatto da Sotheby's per ora è deserto. Nessuno che ha 49 milioni di euro da parte. Come mai? Chi lo sa? La Gazzetta dello Stop, dello Stop, perché il titolo è questo: Inter Stop, la Juve va. La Gazzetta dello Sport. Faccio una proposta: perché non sospendiamo il campionato, lo diamo la vittoria alla Juve per manifesta inferiorità di tutte le altre? Perché insomma ormai è abbastanza evidente. Meno male che il Milan vincerà almeno la Champions League. Io vedrò il mio idolo Kevin Constant alzare la coppa a maggio del 2013. Il giornale radio.